Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Troverò i tuoi occhi neri. Buongiorno Deborah, non vorrei turbare l'atmosfera. Che sei. Non vorrei turbare l'atmosfera creata da Ron, che interpreta questo brano con Tosca, ma sì. So che tu lo hai scelto per motivi bassamente finanziari, non per altro. Sì, anche se ci avrei visto un po' di più un bel valzer di Strauss. E comunque, insomma, ci sono diversi corredi musicali che ci sarebbero stati bene a completamento di questa notizia. E niente, lo Stato austriaco ha emesso un bond a 100 anni. Ah. E vabbè, diciamo che questo è un po' un tema che ricorre, perché per la verità ci sono molte sollecitazioni per molti stati affinché, per sostenere tutte le spese che devono sostenere in questo momento, intraprendano iniziative simili. Diciamo che anche il nostro presidente della Consob, Sabona, ha suggerito di fare lo stesso allo Stato italiano. Al momento noi non ci stiamo pensando, ma l'Austria invece lo ha fatto. Dal bond irredimibile, cioè che non viene, esatto, riscattato, qui direi eredimibile, perché 100 anni, sì, ohimè, però, almeno per quanto mi riguarda, dubito di poter vedere così il rimborso di questo bond austriaco, che però è andato forte, non è che paghi tantissimo, scusa se mi permetto, no. Deborah. Perché 0,85% di cedola, esatto. Sì, insomma, sì, di questi tempi, per carità, va tutto benissimo, però insomma, tenerlo 100 anni forse è un po' tanto, però l'hanno chiesto in tanti. Approfondiremo anche questo, secondo me, perché oggi è giovedì e il giovedì, sì, è il giorno di investire in formati. Anche martedì prossimo sarà un giorno da investire in formati, ma ve lo spieghiamo, sì, meglio tra un po', non vogliamo adesso svelare tutto quanto. Qui c'è già una trepida attesa, dall'altra parte del vetro, cara Deborah, vedo l'esotica, ma anche direi l'elvetica, Baba Fusconi, Elisabetta, ecco, Fusconi, ieratico Peter Bescapè davanti ai suoi pulsantini che tutto governa, e poi l'eclettico Marco Lombardo, eclettico perché ha vinto anche di fare da assistente per la preparazione del Serpente Corallo, la trasmissione come sempre dedicata alle truffe che faremo ad agosto con i miei amici. Tutte le fortune Chapter già 11. Questo ragazzo. Ah, sì, esatto, sì, infatti chissà se sta brindando da casa a questa grande opportunità professionale. Sicuramente, guarda, è felicissimo, non vedeva l'ora, anzi si era candidato sbaragliando la concorrenza, secondo me. Allora, prima Ottimo. Di andare a un nostro ricchissimo giovedì quest'oggi, ricchissimo, ricordo i numeri di telefono per parlare di educazione finanziaria, investimenti, mercati, risparmio. Numero verde 800 24 00 24, per intervenire in diretta, tenetelo caro perché poi ci faremo anche il domandone con il numero verde. SMS e WhatsApp li riceviamo al 349 238 6666. Cara Deborah, qui se siamo tutti d'accordo partirei con il nostro giornale radio del risparmio. Pronti via. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Questa notizia si è guadagnata un sacco di commenti sui giornali di ieri, fra i quali c'era anche quello molto brillante, come al solito, del nostro vice direttore Alberto Orioli. Mauro, giusto? Verissimo, verissimo, è stato molto bravo nel descrivere, beh, insomma, verrebbe da dire un po' calcisticamente, non lo scopro certo io, Alberto Orioli, ma i nostri ascoltatori, non solo i lettori, lo conoscono molto bene. Perché whatever, sì, it takes, che è la famosa frase pronunciata appunto da Mario Draghi in difesa dell'euro, faremo tutto quello che è necessario e credetemi sarà abbastanza. Questo fu il completamento della frase. Ecco, questa frase è entrata nel lessico digitale della Treccani, perché l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ha pubblicato un percorso linguistico che colloca nel tempo e fissa il significato, leggo testualmente, storico, sociale e culturale di questa espressione, considerata la fase culminante della carriera istituzionale di Draghi come governatore della Banca Centrale Europea. È una frase che, come sappiamo, non solo è stata molto famosa, ma possiamo anche dire è stata molto efficace, perché in quel momento, diciamo, nella crisi dei debiti sovrani e tutto quello che ne conseguiva, questo intervento forte, risoluto di Mario Draghi effettivamente mise a tacere gli speculatori. Alle volte le parole sono pietre, verrebbe da dire, cara Debora. Ti dico pietre, me la ricordo molto tu... bene quell'estate, sì. Tu perché? Devi parlare di lanciare? Una rocca. No, tu devi parlare di una rocca e io sono passato alle pietre. La rocca di San Marino. Esatto. Della rocca di San Marino. Allora, ma gli ascoltatori si chiederanno, ma per quale motivo? Devo dire che il mercato obbligazionario in questo periodo è molto intraprendente ed è ricco di iniziative. Oltre al bond centenario lanciato dal governo austriaco, ieri abbiamo parlato dell'iniziativa anche molto interessante sarà lanciata dalla Sicilia, che emetterà questi Sicilia bond proprio per sostenere il settore turistico in questo momento in grandissima difficoltà. Lunedì parleremo del BTP Futura, la nuova emissione del Tesoro italiano, anche in questo caso destinata a reperire risorse per gestire l'emergenza finanziaria, una emissione interamente, completamente, totalmente destinata al pubblico retail. E in tutto questo ci mettiamo dentro anche l'iniziativa della Repubblica di San Marino, che si prepara a lanciare il suo primo Titano Bond. L'estate del Covid rimarrà proprio nella storia della piccola nazione, raccontano le cronache, come quella del debutto sul mercato dei capitali. A metà luglio sarà collocato sul mercato il primo titolo sovrano della sua storia secolare. Per la verità la Repubblica di San Marino ci sta provando da qualche tempo, almeno dal 2015, che appunto ha sul tavolo il progetto di un'emissione sovrana. Adesso questa emissione, evidentemente per fronteggiare l'economia, si rende necessaria, non più rinviabile, quindi ci sono tutte le condizioni per partire. Sta seguendo l'iniziativa una banca d'affari internazionale che sta sondando il terreno, in particolar modo a Londra, per capire se questa emissione potrà avere successo appunto fra gli investitori istituzionali, direi, perché non abbiamo dettagli, ma non credo che sarà un'emissione che finirà anche tra i piccoli risparmiatori. Noi comunque la seguiremo, perché poi, come dire, si annidano sempre anche nei pericoli, no, tra queste iniziative per il piccolo risparmio che crede di poter approfittare di queste opportunità. Quindi cercheremo di capire quando sono anche destinati ai piccoli risparmiatori questi titoli o quando no. In questo caso ancora non abbiamo molti dettagli, lo sapremo a metà luglio, in circa metà luglio. Mauro. E siamo qui per dirvelo, perché a proposito di informazioni ai risparmiatori, Banca Popolare di Bari è stata condannata a risarcire dei risparmiatori, un risarcimento di oltre 400.000 euro. E perché? Perché non aveva informato correttamente tre fratelli della provincia di Bari che avevano perso i loro risparmi investendoli in obbligazioni Lehman Brothers. Purtroppo tutti sappiamo che la fu Lehman Brothers, bisogna dire, a questo punto, da ormai da 12 anni. Al termine di una vicenda, di un processo che si è trascinato per oltre 7 anni, il tribunale ha accertato che la banca era venuta meno agli obblighi di informazione, perché avrebbe dovuto informare questi tre fratelli del rischio specifico che poteva essere collegato a questi investimenti in titoli Lehman Brothers. In questo poteva anche suggerire loro un disinvestimento, e così il tribunale ha deciso che la banca doveva risarcire appunto i risparmiatori. L'avvocato... Sì, volevo... Prego, bravo, Deborah, esattamente. Volevo proprio ricordare l'avvocato che ha seguito questa causa, perché è un amico di Due di Denari, ci aiuta molto spesso appunto a risolvere anche altre situazioni. Peraltro sta seguendo anche la vicenda della Popolare di Bari, e quindi magari salutiamolo, Mauro. Che ne dici? Certo, è l'avvocato Massimo Melpignano, che è colui che appunto fa da responsabile nazionale Banca e Finanza per Consumer Italia, ed è lui che ha assistito questi risparmiatori ed è riuscito a risolvere in senso positivo la vicenda a loro favore. No, la prossima notizia mi devi aiutare tu a chiarirla, anche perché mi hai detto, Deborah, la diciamo, perché la sintesi è chiara. Allora, è una notizia che arriva da una pronuncia della Corte Costituzionale che ha esaminato ieri alcune situazioni sollevate da tribunali di Bari e di Roma, quindi a Bari ritorniamo peraltro in questo momento, ma qui ti lascio perché vorrei che ce la spiegassi tu. Il tema è il lavoro, il Jobs Act. Sì, e il tema è il licenziamento illegittimo, però che sia legittimo solo per vizi formali. Allora, come ben sai, Deborah, con il Jobs Act c'è stata poi una correzione già della Corte Costituzionale che ha detto il sistema di compensazione dei licenziamenti era troppo rigido se basato solo su criteri di durata della prestazione lavorativa e quantità di rimborso da emettere. C'è stato un ulteriore intervento della Corte, non abbiamo ancora il deposito della sentenza, ma intanto l'ufficio stampa ha detto: guardate, è incostituzionale anche un'altra parte, cioè quella che prevede che se il licenziamento è illegittimo ma per vizi di procedura, cioè solo per vizi formali, l'indennità venga ancorata soltanto all'anzianità di servizio. Non va bene, deve esserci sempre una valutazione nel merito. Questo, quindi, la Corte ha, come dire, completato il suo percorso. Non ci può essere un automatismo di risarcimento in questi casi, ma deve esserci sempre una valutazione nel merito. E come valutazioni nel merito sono quelle che vengono fatte dai docenti universitari, ed è la nostra ultima segnalazione, perché oggi, come sai, cara Deborah, non so se già hai provveduto ad acquistarlo, con il Sole 24 Ore è in edicola la guida all'università, 118 pagine, guida alla facoltà, guida alla scelta, guida agli sconti, guida alle borse di studio, guida ai finanziamenti, insomma un po' tutto. E poi da sabato comincia anche una serie di opuscoli fatti con Alfa Test per prepararsi ai test universitari, appunto. Ma prima facciamoci un'idea di cosa scegliere. Per l'università sarà un anno di deciso rinnovamento, sai che adesso i corsi saranno molto blended, ma se compri la guida all'università capisci bene di cosa si tratta. Mi pare che abbiamo detto bene tutto, cara Deborah, e quindi io passerei senz'altro al nostro dillo a due di denari, così che si possa poi aprire lo spazio di Investire Informati. Prego, Peter. Dillo a due di denari. Buongiorno, sto ascoltando il vostro programma sui lavori stagionali e vorrei sostenere l'ultimo messaggio vocale che avete mandato in onda riguardo le condizioni in cui lavorano i ragazzi che fanno lavoro stagionale presso gli hotel. Mia figlia ha fatto un'esperienza 2 anni fa a Milano Marittima. Non solo lavorava 7 giorni su 7, 16 ore al giorno, ma l'alloggio che veniva fornito era in uno scantinato senza finestre, stanza condivisa da 3-4 ragazze. Mia figlia veniva da una scuola alberghiera, diploma, discreta valutazione e esperienza fatta durante gli stage della scuola. Paga media oraria 3 euro all'ora. Ecco, queste sono le condizioni. Forse anche per questo non si trova il lavoro stagionale. Ida, da Cremona. Sì, avevamo già percepito anche ieri il disagio di molti ascoltatori sull'argomento che abbiamo trattato, il fatto appunto che gli imprenditori del settore soprattutto quest'anno fanno fatica a trovare lavoratori stagionali, sostenendo che le giustificazioni prodotte dalle persone che non accettano queste disponibilità di posti sono legate appunto alle questioni di sicurezza, regole di distanziamento, quindi tutto ciò che ha provocato quest'anno il Covid. Il tema sollevato dagli ascoltatori lo conosciamo, ne abbiamo parlato anche ieri, e è un tema estremamente delicato, caro Mauro, e forse questa potrebbe essere la stagione giusta, evidentemente, per gli imprenditori del settore per fare una riflessione sulle condizioni di lavoro proposte al personale che cercano. Non so se sei d'accordo, però certo che prendere una posizione è molto difficile. È un settore che è sempre stato, diciamo, tacciato di questo tipo di critica, di questa critica. E quest'anno naturalmente tutto si acuisce, perché c'è anche la difficoltà a sapere se effettivamente ci sarà bisogno di lavoratori stagionali oppure no. In più, e ieri ne abbiamo parlato diffusamente, la nostra puntata è a disposizione sul sito di Radio 24, www.radio24.it, c'è un problema pesante normativo, perché la regolamentazione dei lavoratori stagionali risale a un decreto del 1900.